Economia in pagina. Buonasera, buonasera. Questa sera parliamo di un libro dedicato alle donne, Rivoluzione Womenomics, edito dal Sole 24 Ore, delle due autrici, Wittenberg Cox e Maitland, e l'edizione italiana di questo libro ha come sottotitolo Perché le donne sono il motore dell'economia. Dimenticate la Cina, l'India e Internet, la crescita economica è trainata dalle donne, lo dice l'Economist. L'Economist che qualche anno fa ha proprio introdotto questo neologismo, la Womenomics, l'economia in versione femminile. Ne parliamo questa sera con Daniela Del Boca. Buonasera, professoressa Del Boca. Buonasera. Professoressa di economia all'Università di Torino, che ha scritto la prefazione a questa edizione italiana di questo libro, e con Laura Laposta. Buonasera Laura. Buonasera direttore. Buonasera Laura. Laura Laposta, caporedattore del Sole 24 Ore, molto attenta alle problematiche femminili, alle problematiche che riguardano il mondo del lavoro al femminile. Quindi Womenomics, Laura Laposta, come mai questo neologismo? È la sintesi tra women e economics, perché l'economia è sempre più trainata dalle donne. Il potere d'acquisto infatti si sta spostando sempre di più sulle donne, che sono la maggior parte dei laureati, quindi hanno possibilità di reddito in prospettiva più elevata rispetto agli uomini e vivono di più anche, sono maggiormente eredi di patrimoni e quindi hanno una capacità di spesa maggiore, tanto che si stima che nel 2026 ci saranno più persone ricche di sesso femminile che di sesso maschile. C'è una rivoluzione femminile che sta avanzando. Allora vorrei chiedere a Daniela Del Boca, su questo fronte l'Italia forse ha maggiori opportunità degli altri paesi perché parte un po' in ritardo, abbiamo una partecipazione delle donne inferiore a quella degli altri paesi del mondo del lavoro, abbiamo una minore ricchezza forse anche da parte delle donne, abbiamo una maggiore forza del lavoro inutilizzata femminile. Allora l'Italia ha più opportunità, possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno che può essere ulteriormente riempito. Daniela Del Boca. Sì, assolutamente sì. Le differenze tra Italia e anche solo il resto d'Europa o Stati Uniti sono veramente molto forti su questo ambito. Infatti proprio quella ricerca che si citava prima di Goldman Sachs, che poi è stato ripreso dall'Economist, fa proprio vedere che se si arrivasse a una parità di genere tra gli occupati si potrebbero produrre incrementi del PIL del 13% in Europa e 22% in Italia, quindi c'è un po' meno del doppio, ma è chiaramente molto, molto di più. Sì, le donne sono ferme da ormai 7-8 anni al 46% dell'occupazione, molti dei nuovi contratti presi da donne sono a tempo determinato, quindi insomma ci sono moltissimi elementi che fanno capire che le donne sono veramente non valorizzate e invece c'è tutta questa enorme potenzialità che potrebbe essere valorizzato. Ecco, ma se questa è l'analisi dobbiamo chiederci allora quale può essere la terapia, che cosa si può fare per far partecipare. Prima cosa dobbiamo chiederci come mai siamo in questa situazione. Le risposte possono essere solo due: o una società che non usa un capitale umano così importante, che ha investito in questo capitale umano, perché come sottolineava Laura Laposta prima, le donne hanno non solo hanno raggiunto gli uomini sul piano degli esiti universitari, ma anche con voti migliori, quindi e comunque c'è stato un investimento di tutto il paese in questo, quindi una società o immensamente ricca per potersi permettere il lusso di non valorizzare queste risorse, oppure è immensamente miope. Penso che non siamo immensamente ricchi, quindi siamo molto miopi. Quindi la colpa è un po' di noi maschi, che siamo un po' miopi, siamo un po' forse imprevidenti e non abbiamo un po' paura a lasciare un po' di potere all'altra metà del cielo, in un certo senso. E forse la prevalenza della leadership maschile è ancora molto forte nella tradizione italiana. Sì, penso che questo sia una cosa molto importante, c'è un elemento culturale molto importante che non permette un'integrazione delle donne allo stesso livello degli uomini, e finché questo non cambia un pochino, è una questione proprio di soglia, finché questo non cambia un pochino, soprattutto nei quadri dirigenti, non si riesce a stabilire proprio quello che nel libro si chiama il bilinguismo di genere, cioè creare un'atmosfera nell'ambito del lavoro che rifletta un po' le caratteristiche di tutti gli individui, come dice appunto l'autrice, quando un'impresa va all'estero, assume delle persone all'estero, impara la lingua per capire la cultura, per potersi destreggiare. Allora, se si assumono molte donne, come ormai si stanno un po' assumendo in tutto il mondo, bisognerebbe cercare di imparare il loro linguaggio e quindi il loro modo di lavorare, metterlo e fare in modo di non reprimerlo, ma di valorizzarlo al massimo. Ecco, ma Laura Lapposta, qualcosa sta cambiando comunque in Italia, anche se forse lentamente. Sì, qualcosa sta cambiando, e purtroppo però il paese è spaccato in due, perché i tassi di occupazione al sud sono ancora ai livelli praticamente africani, lavorano troppe poche donne, e invece il nord ha fatto passi da gigante, anche per un problema di cultura prevalente che chiude le donne un po' nell'ambito di questo familismo che è una gabbia dorata, ma anche che le donne pagano a caro prezzo, come abbiamo visto ben descritta nel libro di Alesina e Ichino sull'Italia delle famiglie. È senz'altro una gabbia confortevole, spesso dorata, ma che pur sempre una gabbia, e chiude le donne nell'ambito di un ruolo di spose e madri ottocentesco che non possiamo più permetterci. Tant'è che i dati Istat dicono chiaramente che le famiglie sulla soglia di povertà in Italia sono le monoreddito. Davvero non possiamo più permetterci un paese in cui lavora solo una persona nelle famiglie. È un tasso di rischio troppo elevato e costringe, reprime i consumi. E quindi anche questo è il valore della Womenomics. Se più donne lavorano, più donne hanno soldi, le famiglie sono più ricche, allora consumano di più, quindi l'economia riprende. Ma allora queste imprese però che vendono i loro beni devono anche capire meglio le esigenze delle donne per servirle meglio, come ha fatto Luxottica, che ha un bellissimo piano interno aziendale, e Luxottica entro 2 anni vuol passare al 40% delle posizioni di leadership in azienda affidarle a dirigenti donne. Questo perché il 60% dei loro clienti sono donne. Allora inevitabilmente è una questione anche di linguaggi. È vera questa questione del bilinguismo di genere che le autrici del libro Womenomics pongono in essere. Una donna probabilmente sa parlare meglio a un'altra donna, quindi se ci sono più donne ai piani alti delle aziende, queste aziende magari possono servire meglio il loro pubblico, che è sempre più femminile, perché l'83% dei beni di largo consumo venduti negli Stati Uniti sono acquistati da donne, e in Italia il 70%. Ecco, c'è anche un aspetto particolare, che la partecipazione della donna al mondo del lavoro non è in contraddizione al fatto che la società abbia un tasso demografico, un tasso di crescita demografico più alto. L'esperienza degli altri paesi, la Francia per esempio, dimostra che anche se c'è una maggiore partecipazione femminile, comunque le donne non rinunciano a fare i figli. In questo senso l'Italia ha un po' un paradosso, ha un bassissimo tasso di partecipazione al lavoro femminile e un bassissimo tasso di incremento demografico. Anche questo servirebbe un po' a smuovere la società se le donne partecipassero di più. Daniela Del Boca. Beh, certo, perché diciamo in Italia questo binomio, che è stato possibile in tanti altri paesi nord europei, ma anche gli Stati Uniti, la Francia, in cui si può lavorare di più e lavorare e avere figli e avere anche più di un figlio, come invece noi siamo limitati a questa famiglia con un figlio unico. Il problema è che in Italia è data la situazione sia del mercato del lavoro, che appunto in cui i nuovi lavori sono quasi tutti a tempo determinato e quindi danno un'enorme incertezza rispetto al futuro, soprattutto per le giovani donne, per le nuove generazioni. I figli restano in famiglia fino a 30 anni e quindi, e questo è molto simile anche ad altri paesi del Sud Europa, non è solo l'Italia. Diciamo l'Italia è un po' peggio di queste, anche della Spagna e vicino alla Grecia, diciamo. Però si vede che le donne e questa è una cosa che è stata rilevata in una ricerca recente, le donne cercano di uscire prima della famiglia dei maschi, e questo è un dato che ci dà qualche speranza, quindi cercano di essere indipendenti e anche pagando un prezzo, quindi accettando dei lavori peggiori, e questo probabilmente comincia a innescare un circolo vizioso anche poi di discriminazione, però cercano di essere indipendenti e di uscire dalla famiglia prima, quindi di cercare di rompere questo circolo vizioso che in realtà è per tutti e due, per i maschi e per le femmine, cioè di restare tanto a lungo in famiglia che poi è difficile costituire una famiglia ed avere dei figli ed avere più di un figlio. Quindi qualcosa si sta muovendo anche sul piano proprio delle intenzioni femminili, delle donne che cercano di cambiare, e credo che questo libro proprio è importante perché è uno dei primi libri che io vedo che ha proprio questa impostazione di modello positivo. Diamo degli esempi positivi, non continuiamo a lamentarci, a dire questo va male, questo non va. Proviamo a vedere qualcosa che sta andando bene, l'esempio di Luxottica che faceva Laura prima, e poi altri esempi proprio di donne che hanno fatto non delle cose eccezionali, ma hanno cercato di difendere dei loro percorsi di vita e di lavoro, facendo ovviamente fatica, ma ci sono riuscite e ci continuano a riuscire. Quindi questa è una cosa, sono gli elementi molto belli di questo libro. Ecco, difendendo la posta anche la diversità femminile, perché anche la diversità è un valore, non bisogna mascolinizzare le donne, ma le donne possono portare nel mondo del lavoro dei tratti caratteristici che completano anche le strategie e le visioni aziendali. Certo, anzi, è la diversità di opinioni, di approcci, è assolutamente un terreno fertile su cui le aziende possono far crescere nuovi prodotti, nuove idee di business, e su cui anche la società può investire per ottenere dei risultati migliori in termini sociali. Assolutamente bisogna insistere su questa strada e non omologarsi al mondo maschile, ma avere dei role model di donne, quindi che hanno saputo conciliare la vita e la carriera mantenendo la loro femminilità e continuando ad avere figli. Un po' come Laura Laposta nel mondo del lavoro. Ringrazio Laura Laposta, caporedattore del Sole 24 Ore, ringrazio Daniela Del Boca, professore di economia all'Università di Torino. Abbiamo parlato del libro Rivoluzione Womenomics di Aviva Wittenberg-Cox e Alison Maitland, Perché le donne sono il motore dell'economia, edito dal Sole 24 Ore, sono 340 pagine, è un testo abbastanza ricco, costa 19 euro. Peraltro di questo libro si parlerà lunedì 8 marzo, che non a caso è la festa della donna, alle 18, qui al Sole 24 Ore, in via Monterosa 91 a Milano, in un convegno che sarà introdotto dal direttore Gianni Riotta, a cui parteciperanno tra l'altro Daniela Del Boca, e cui Laura Laposta sarà la moderatrice, parteciperanno anche Andrea Ichino, Renato Mannheimer, Claudia Parzani, Maria Vittoria Rava, la stessa Aviva Wittenberg-Cox, autrice di questo libro. Quindi l'appuntamento per chi vuole partecipare a questo convegno qui al Sole 24 Ore è per lunedì alle 18, ma per tutti la Rivoluzione Womenomics, questo libro che illustra la realtà del mondo femminile, la partecipazione positiva che può esserci da parte delle donne alla crescita dell'economia e quindi dell'intera società. Da parte mia ringrazio Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.